La falange siamo dei mietitori e facciamo le messi a lor signori. La falange siamo dei mietitori e facciamo le messi a lor signori. Venga il sol cocente, il sol di giugno, che arde il sangue e annerisce il grugno, arroventa la falce nel nostro pugno, arroventa la falce nel nostro pugno. Noi siamo venuti da molto lontano, sporchi, scalzi e brutti, e con la falce in mano, ammalati dell'aria del pantano, per falciar le messi a lor signori. La falange siamo dei mietitori e le messi falciamo a lor signori. I nostri figli non hanno pane e chissà, mio Dio, se morranno domani. Invidiando il pranzo ai vostri cani, invidiando il pranzo ai vostri cani. Il sole cuoce, il sudore ci bagna, suona forte il bidone che ci accompagna, finché sfiniti cadiamo a terra, per falciare le messi a lor signori. La falange siamo dei mietitori e le messi falciamo a lor signori, e le messi falciamo a lor signori. La falange siamo mietitori. Signori, o dolci eroi, vengano qui un po', dove facciamo noi? Balleremo il trescon, la ride e poi falceremo le teste anche a voi. La falange siamo dei mietitori e le felci saliam a noi signori. Le falange siam dei mietitori e le messi falciam a lor signori.